Luponer Summer Spurgo. So hard to suppress your darkest. Ed eccoci qua al primo episodio di Luponer Summerspurgo, una protesi estiva per ascoltare tutta quella monnezza e robe anche belle che ci sono state date nei mesi ad un inverno e non siamo riusciti a mandare nella trasmissione radiofonica vera. Per cui ci becchiamo questo podcast di merda su archive.org con la sola voce di Vanni e Frammi, che si stava nell'introduzione, lo terremo sempre lì in apertura di questa trasmissione, anche per le prossime puntate. Abbiamo appena ascoltato Agnes, che è il progetto solista di Agnieszka Lesna, ex Desdemona, ex Red Storm, sedicente strega polacca dedita a questa mezza specie di dark pop, witch pop, almeno così se lo presenta. Il brano che abbiamo ascoltato era Antipriest, un singolo uscito a febbraio. E ora andiamo avanti, passando a tutt'altro, con gli Erxheim, una band texana che fa una via di mezzo tra doom, death e thrash metal, veramente fastidiosa come dovrebbe essere fatta queste cose qua. Dal mini LP Contrapasso, titolo così, Contrapasso, uscito a marzo, ascoltiamo il brano And Their Pyrrhic Victories. Essi sono Erxheim. Yeah. Luponer Summerspurgo. Allora, abbiamo appena ascoltato Lana Del Rey da Phoenix, Arizona, USA, un'artista che si propone come Dark Wave, Gothic Noise, Industrial, fondamentalmente Witch House, da cui abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, Queen of the Black Muses, uscito adesso fresco fresco. Invece un pochetto di più di tempo, ma non tantissimo, ce l'ha questo EP di remix dei Figure Section, sezione di figa, una cosa che ci viene proposta dalla Antibody di Bruxelles, Belgio. È uscito questo EP con dei remix del brano loro Agatha S, fatto dai Front 242 e dai Radical G. Ascoltiamo questo qui, Radical G Remix di Agatha S, essi sono Figure Section. Thank you. Lupo Nair, Summerspurgo. Su Metal Archives non ce li vogliono questi Zorn, non si capisce bene per quale motivo, perché fondamentalmente, ok, che è crust punk, ma è anche molto molto ispirato dal thrash death black metal, più o meno estremo. Loro vengono da Philadelphia, Pennsylvania, e abbiamo ascoltato il brano The Spell of a Fairy Tree, dall'ultimo album omonimo degli Zorn. E ora passiamo alle Marche, che c'hanno gli Ego 3. Gli Ego 3 hanno appena pubblicato un album fresco fresco intitolato, come che si intitola, Istinto di autodistruzione. L'altro giorno non siamo riusciti a mandarli al Lupo Nair la versione tradizionale, semplicemente perché il CD si era perso dalla macchina de Senesi, che adesso me l'ha reso pochi giorni fa, quindi ho ascoltato questo album in ritardo. Da Istinto di autodistruzione ascoltiamo da questa non è più un trio, si chiamano Ego 3, ma ormai sono un duo con un basso doppiato dalla chitarra, una roba così, c'hanno i problemi sti ragazzi. Ascoltiamo il brano Randagi, prego maestro. Bastardi, malati e violenti, portiamo la rabbia, puzziamo di morti, a zonnare per fame, a zonnare per gioco, caghiamo per strada, sbraniamo cretini. Randagi! Dall'uomo, deboli marci, eppure esistiamo. C'è chi dà un occhio, senza un orecchio, us deflagrato, eppure esistiamo. Siamo la vostra immondizia. Lupo Nero Summerspurgo. PC World non è il nome di una rivista di computer che poteva uscire in edicola negli anni Ottanta, ma è un progetto londinese di musica elettronica più o meno deviata. Questo è il loro ultimo EP, uscito solo in cassetta, Infinite Dream Weapon. Abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo alla selezione, Infinite Dream Weapon. Scopro ora che la copertina, l'artwork di questa uscita è opera di Nicola Tirabasso, che è uno dei nostri, nel senso che è marchigiano pure lui, per quanto si scansi, noi ti seguiamo sempre, caro. E ora passiamo ad ascoltare invece Bunzen è una band di industrial metal finlandese che ha da poco pubblicato un album intitolato Burner. Da questo Burner, che è il brano andiamo ad ascoltare, Halt Self da Burner, loro sono i Bunzen da Finlandia. Lupo Nair Summerspurgo. Ho messo un intero pomeriggio a imparare a pronunciare correttamente Angepasst Spisaschweine, che è il titolo di questo singolo di Die Tödin, la morte con il genere invertito, dalla Germania, da Gelsenkirchen. Curioso, sono andato a cercare anche foto di questa cittadina, ho visto solamente impianti industriali e centrali nucleari, quindi il clima ideale per questa Trudarkwave, come la dichiara questa mia futura sposa, Die Tödin. Anche pasta e spisa schweine, che più o meno è porci borghesi omologati. I want to die when I see angepasst Spitzschweine, quando un testo ti parla nell'anima. E ora abbiamo gli Atrexial, escono per la Non Serviam Records, vengono da Barcellona, Spagna, e fanno un macello, trash, black, post, death, doom, quella, un macello, dal loro album, l'ultimo, The Serpent Abomination, ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, The Serpent Abomination. Loro sono gli Atrexial. Li ho visti live a Lipsia e mi hanno messo un pochetto paura questi Abu Nine da Malmo, Svezia, capitanati da Erika Lundqvist, con un bel lucifero tatuato sulla panza, perché stava lì anche mezza nuda a fare queste cose, e dal suo secondo album, o loro secondo album, di Abu Nine, abbiamo intitolato due, perché se non c'è un titolo, abbiamo ascoltato il brano I Am Emptiness, e abbiamo concluso questo primo episodio di Luponer Summer Spurgo. Vediamo se quando mi romperò le palle se andrà avanti per tutta l'estate, chi lo sa. Nel dubbio adesso vi lasciamo con gli Ultrasun, un duo di Sandy Martin che vengono dal Belgio, da Bruxelles. Sono tanti tanto belli, vestiti di nero laccato e con le barbette fatte. Lui, lei, non so se c'ha la barbetta fatta, la foto non lo mostra. Dall'album Ultrasun, cioè US Ultrasun degli Ultrasun, ascoltiamo il brano Lost and Found, e probabilmente giovedì prossimo riapparirà il secondo episodio di Luponer Summer Spurgo. Lost and found, I can let you go. Lupo Nero Summerspurgo.